Capitolo 119. La giovinezza di Eracle. Alcmena, che temeva la gelosia di Era, abbandonò il suo bimbo neonato in un campo fuori delle mura di Tebe e colà, per istigazione di Zeus, Atena condusse Era a passeggiare. «Guarda, mia cara, che bimbo eccezionalmente robusto», disse Atena simulando sorpresa mentre si chinava per prendere Eracle tra le braccia. Sua madre deve aver perduto il senno per abbandonarlo così in questo campo sassoso. Su via, tu hai del latte, danne a questa povera creatura. Sconsideratamente Era prese il bambino e si denudò il petto, ed Eracle vi si attaccò con tanta forza che la dea, gemendo per il dolore, lo allontanò da sé. Un getto di latte volò verso il cielo e divenne la Via Lattea. Quale mostro è mai questo bambino? Gridò Era. Ma ormai Eracle era immortale e Atena, sorridendo, lo restituì ad Alcmena, raccomandandole di averne cura e di farlo crescere bene. I tebani ancora oggi mostrano il luogo dove Era fu così ingannata. Il campo è chiamato Pianura di Eracle. Taluni tuttavia dicono che Ermete portò Eracle neonato sull'Olimpo, che Zeus stesso lo posò sul petto di Era mentre la dea dormiva, e che la Via Lattea si formò quando Era, destatasi, lo allontanò da sé, oppure quando Eracle, avendo succhiato più latte di quanto la sua bocca ne potesse contenere, lo rigurgitò. In ogni caso, Era fu la madre adottiva di Eracle, seppure per breve tempo, e i tebani perciò lo considerano addirittura suo figlio e dicono che egli si chiamava Alceo, prima che la dea lo allattasse, e gli fu poi mutato il nome in onore di lei. Una sera, quando Eracle aveva 8 o 10 mesi, o come altri sostengono un anno, e non era ancora svezzato, Alcmena, dopo aver lavato e allattato i gemelli, li coricò sotto una coperta di vello di agnello in una culla di bronzo che Anfitrione aveva riportato come bottino dalla sua vittoria su Pterelao. A mezzanotte Era mandò 2 prodigiosi serpenti dalle scaglie azzurrine nella casa di Anfitrione, col severo ordine di uccidere Eracle. Le porte si aprirono dinanzi a loro ed essi scivolarono sui marmorei e i pavimenti sino alla camera dei bambini. Fiamme schizzavano dai loro occhi e veleno gocciolava dalle loro fauci. I gemelli si destarono e videro i serpenti inarcarsi dinanzi a loro, dardeggiando le lingue biforcute, poiché Zeus di nuovo illuminò la camera di luce divina. Ificle strillò, gettò via le coperte, scalciando, e nel tentativo di fuggire cadde dalla culla. Le sue grida atterrite, la strana luce che brillava nella camera dei bambini, destarono Alcmena. «Alzati, Anfitrione!» essa gridò. Senza nemmeno indugiare per infilarsi i sandali, Anfitrione balzò dal letto di legno di cedro, afferrò la spada che stava appesa alla parete e la sfilò dal lucido fodero. In quel momento la luce nella camera dei bambini si spense. Gridando agli schiavi addormentati di portare delle torce, Anfitrione varcò la soglia, ed Eracle, che non aveva lanciato nemmeno un gemito, tutto fiero gli mostrò i serpenti che egli stava strangolando uno per mano. Appena furono morti, Eracle rise, fece balzi di gioia e gettò i rettili ai piedi di Anfitrione. Mentre Alcmena confortava l'atterrito Ificle, Anfitrione fece coricare Eracle, gli rimboccò le coperte e tornò a letto. All'alba, quando il gallo ebbe cantato 3 volte, Alcmena fece venire il vecchio Tiresia e gli parlò del prodigio. Tiresia, dopo aver previsto future glorie per Eracle, consigliò ad Alcmena di innalzare un rogo con legna secca di erica, pruno selvatico e rovo, e di bruciarvi sopra a mezzanotte i serpenti. Il mattino seguente un'ancella doveva raccogliere le loro ceneri, portarle sulla roccia dove un tempo stava accoccolata la Sfinge e spargerle ai 4 venti, per poi fuggire senza voltarsi mai. Al suo ritorno bisognava purificare il palazzo con fumi di zolfo e acqua di sorgente salata e coronarne il tetto con rami di ulivo selvatico. Infine dovevasi sacrificare un cinghiale sul sommo altare di Zeus. E Alcmena fece tutto ciò. Ma altri dicono che i serpenti erano innocui e posti nella culla da Anfitrione stesso, che voleva sapere quale dei 2 gemelli fosse suo figlio, e lo seppe. Quando Eracle non fu più un bambino, Anfitrione gli insegnò a guidare il cocchio e a girare attorno alla meta senza sfiorarla. Castore gli diede lezioni di scherma, lo istruì nell'arte di maneggiare le armi e nella tattica di cavalleria e fanteria. Uno dei figli di Ermete fu il suo maestro di pugilato, o Autolico o Arpalico, così orrendo a vedersi quando combatteva che nessuno osava affrontarlo. Eurito gli insegnò a maneggiare l'arco, o forse fu lo scita Teutaro, uno dei mandriani di Anfitrione, o forse lo stesso Apollo. Ma Eracle superò tutti gli arcieri che fossero mai esistiti e persino il suo compagno Alcone, padre di Falero l'Argonauta, che sapeva trapassare una serie di anelli posti sugli elmi dei soldati in fila o fendere una freccia in bilico sulla punta di una lancia. Un giorno, quando suo figlio fu attaccato da un serpente che lo avvolse nelle proprie spire, Alcone scoccò una freccia con tanta abilità da uccidere il serpente senza nemmeno scalfire il ragazzo. Eumolpo insegnò a Eracle a cantare e a suonare la lira, mentre Lino, figlio del dio del fiume Ismenio, lo introdusse allo studio della letteratura. Un giorno, durante l'assenza di Eumolpo, Lino volle dare a Eracle lezioni di lira. Il ragazzo si rifiutò di seguire principi diversi da quelli impartitigli da Eumolpo e, fustigato in punizione della sua caparbietà, uccise Lino con un colpo di lira. Processato per assassinio, Eracle citò la legge di Radamanto, che giustificava l'uso della violenza contro un aggressore, e si assicurò così l'assoluzione. Anfitrione, tuttavia, temendo che il ragazzo potesse commettere altri crimini, lo mandò a pascolare le mandre in un suo possedimento agreste, e colà egli visse fino al suo 18° anno, sopravanzando tutti i coetanei per statura, forza e coraggio. Fu prescelto per reggere l'alloro durante la processione di Apollo Ismenio, e i tebani ancora conservano il tripode che Anfitrione consacrò per lui in quella occasione. Non si sa chi insegnò a Eracle l'astronomia e la filosofia, però egli era assai dotto in ambedue gli argomenti. Di solito si attribuisce a Eracle una statura di 4 cubiti, ma poiché egli misurò col proprio passo lo stadio di Olimpia, fissandone la lunghezza in 600 piedi, e poiché gli stadi greci di epoca più tarda, lunghi teoricamente 600 piedi, risultarono molto più corti di quello di Olimpia, il saggio Pitagora ne dedusse che la lunghezza del passo di Eracle e di conseguenza la sua statura stavano al passo e alla statura degli altri mortali, come la lunghezza dello stadio olimpico stava alla lunghezza degli altri stadi. In base a questo calcolo stabilì che Eracle era alto 4 cubiti e 1 piede, ma altri sostengono che egli non superava la statura normale. Gli occhi di Eracle lampeggiavano come fuoco, ed egli aveva una mira infallibile, sia col giavellotto sia con l'arco. Mangiava parcamente a mezzogiorno, per cena il suo cibo favorito era carne arrostita e ciambelle d'orzo cotte alla maniera dorica, e ne divorava tante, seppur la storia è credibile, da indurre uno dei suoi mandriani a borbottare. Basta! Indossava una tunica corta e linda e preferiva trascorrere la notte sotto la volta stellata anziché al coperto. Una profonda conoscenza della scienza augurale lo induceva a salutare con gioia il passaggio di avvoltoi nel cielo ogni volta che egli dovesse iniziare una nuova fatica. Gli avvoltoi, pare dicesse, sono i più onesti fra gli uccelli, non attaccano mai le creature viventi. Eracle si vantava di non aver mai iniziato un litigio, ma di aver sempre trattato i suoi aggressori così come essi volevano trattare lui. Un certo Termero usava uccidere i viandanti, sfidandoli a battersi con lui a testate. Il cranio di Eracle si dimostrò il più solido, ed egli spaccò la testa di Termero come se fosse un uovo. Eracle, tuttavia, era cortese per natura, e fu il primo mortale che spontaneamente restituì ai nemici le spoglie dei loro morti perché le seppellissero. Secondo un'altra versione, la Via Lattea si formò quando Rea svezzò bruscamente Zeus. Era che allatta Eracle è un mito che probabilmente si ispira alla rinascita rituale del re sacro per merito della regina madre. Una raffigurazione arcaica che può aver suggerito la leggenda postomerica dei serpenti strangolati potrebbe aver mostrato Eracle che accarezza i rettili mentre essi gli lambiscono le orecchie con la lingua, come accadde a Melampo, a Tiresia, a Cassandra e probabilmente ai figli di Laocoonte. Senza questa affettuosa carezza, egli non sarebbe stato in grado di capire il linguaggio degli avvoltoi, ed Era, se avesse voluto davvero uccidere Eracle, avrebbe incaricato un'arpia di rapirlo. Questa scena fu poi erroneamente interpretata da Pindaro o da un suo informatore come un'allegoria dell'infante solare del nuovo anno che distrugge l'inverno simboleggiato dai serpenti. Il sacrificio di un cinghiale a Zeus, compiuto da Alcmena, è un antico sacrificio di metà inverno che ancora sopravvive nella testa di cinghiale presentata a Natale nella vecchia Inghilterra. L'oleastro in Grecia, come la betulla in Italia e nell'Europa nord-occidentale, era l'albero dell'anno nuovo, simbolo dell'inizio usato come sopra per spazzar via gli spiriti maligni. Eracle usava un ceppo di oleastro come clava e ne portò un virgulto a Olimpia dalla terra degli Iperborei. Il fuoco che Tiresia consigliò ad Alcmena di accendere era il falò della Candelora, che ancora brilla il 2 di febbraio in molte parti d'Europa. Suo scopo sarebbe di bruciare le vecchie stoppie e favorire la crescita delle nuove messi. L'Eracle dorico, divoratore di ciambelle in contrasto con l'uso dei suoi colti predecessori eolici e achei, era un semplice re mandriano, dotato delle limitate virtù della sua condizione e che non pretendeva di saper di musica, filosofia e astronomia. Nell'epoca classica i mitografi, memori del detto mens sana in corpore sano, vollero a tutti i costi attribuirgli un'educazione di prim'ordine e interpretarono l'assassinio di Lino come una protesta contro la tirannia anziché contro l'effeminatezza. Tuttavia egli rimase l'emblema della salute fisica e non mentale, salvo che tra i Celti, i quali lo onorarono come patrono delle lettere e delle arti bardiche. Secondo i Celti, Eracle, un dattilo ideo che essi chiamavano Ogmio, rappresentava la prima lettera dell'alfabeto arboreo degli Iperborei, betulla o d'olivo selvatico, poiché su una corteccia di betulla fu inciso il primo messaggio che sia mai stato spedito, ossia la parola betulla ripetuta 7 volte. La prodezza di Alcone che uccide un serpente ci fa pensare a una gara d'arco come quella descritta nel Malleus Maleficarum del XV secolo. Il candidato che si sottoponeva alle pratiche iniziatiche per entrare nella corporazione degli arcieri doveva mirare a un oggetto posato sulla testa di suo figlio, una mela o una monetina d'argento. Ai fratelli di Laodomia che gareggiavano per disputarsi il sacro regno fu richiesto di scoccare una freccia in un anello posato sul petto di un bambino, ma può darsi che il mito sia stato tramandato in forma alterata, perché la cerimonia di solito non comportava il sacrificio di un infante. Pare che in origine la prova a cui si sottoponeva il candidato al trono fosse questa: scoccare una freccia tra le spine di un serpente aureo, che simboleggiava l'immortalità, posato sul cappello di un fanciullo di sangue reale. In altre tribù al serpente si sostituì una mela o l'anello che ornava la sommità dell'elmo o il cerchio che congiungeva le lame di una bipenne. Ma in seguito, quando gli arcieri divennero sempre più abili, si richiese loro di scoccare una freccia tra una serie di anelli da elmo, come accadde ad Alcone, o tra una serie di bipenni, come accadde a Odisseo. Gli allegri compagni di Robin Hood, come gli arcieri germanici, spaccavano in due le monete d'argento, perché recavano il marchio di una croce. Le corporazioni di arcieri erano infatti dichiaratamente anticristiane. Gli arcieri greci e romani tiravano la corda dell'arco fino ad appoggiare la mano contro il petto, così come fanno i bambini, e la portata del loro tiro era così limitata che il giavellotto rimase la principale arma da lancio dell'esercito romano fino al VI secolo d.C., quando Belisario munì i suoi catafratti di archi pesanti e insegnò loro a sollevarli in modo da tirare la corda fino all'altezza dell'orecchio, alla maniera scita. L'abilità di Eracle come arciere è spiegata appunto col fatto che suo maestro fu Teutaro lo Scita, un nome che deriva da Teutaein, esercitarsi assiduamente, cosa che a quanto pare gli arcieri greci non facevano. Per via della loro destrezza nel maneggiare l'arco, gli Sciti furono considerati discendenti di Eracle e si dice che Eracle lasciò il suo arco a Scita, l'unico tra i suoi figli che fosse capace di tenderlo come il padre.